Nella giornata di ieri si sono verificati dei disordini presso il carcere del Pratello che hanno interessato in particolare il secondo piano detentivo, dove sono collocati i ragazzi maggiorenni. Io ho avuto modo, diciamo così, di effettuare un sopralluogo a ridosso degli accadimenti e quello che ho potuto, diciamo, constatare è che allo stato risultano inagibili 5 celle, quindi 2 del primo piano detentivo in ragione degli eventi critici che si sono verificati fra sabato e domenica, e poi altre 3 celle a seguito dei fatti di ieri al secondo piano, no? In relazione ai quali in 2 di esse è stato appiccato il fuoco, mentre un'altra risulta inagibile in quanto risulta essere stata in parte divelta la porta blindata. Tutti i disordini si sono consumati interamente all'interno della sezione detentiva, i cui accessi erano stati bloccati da parte degli operatori penitenziari, e a seguito dei fatti di ieri 3 ragazzi maggiorenni, che quindi si trovavano ancora nel circuito della detenzione minorile in quanto avevano commesso da minorenni il reato, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Bologna. La prima considerazione è che in relazione alle condizioni di sicurezza della struttura preoccupa assai allo stato quella che potrebbe essere la verosimile inadeguatezza delle vie di fuga nella malaugurata evenienza in cui, in caso di incendio di ampie proporzioni, dovesse configurarsi la necessità di evacuare i ragazzi. Per il resto, per quanto riguarda considerazioni generali che possono aver portato anche a scatenare, diciamo così, questi eventi critici, possiamo dire che il deterioramento del contesto detentivo del carcere del Pratello affonda le sue radici nell'apertura del secondo piano, che ormai risale a circa un anno fa. Quindi ci siamo ritrovati nei fatti a vedere, diciamo così, alla luce di questa opzione organizzativa, un raddoppio nei fatti della capienza regolamentare all'interno di un contesto strutturale che, come sappiamo, essendo un edificio storico riadattato all'uso carcerario, contesto che già si presentava inadeguato, con che inadeguatezza che poi nei fatti ha anche delle evidenti ricadute sulle condizioni di vita dei ragazzi, le cui fragilità, come vi dicevo, nel corso di quest'ultimo anno ci sono evidentemente amplificate. Questo raddoppio della capienza regolamentare rispetto a questa opzione organizzativa peraltro non si è corrisposto con l'aumento, diciamo così, di quelli che sono gli organici, degli operatori della sicurezza da un lato e anche di quelli che sono i cosiddetti educatori, quindi gli operatori dell'area educativa che si occupano appunto degli interventi educativi nei confronti dei ragazzi. Ora, una situazione di questo tipo, alla luce appunto di questo raddoppio nei fatti della capienza regolamentare, cosa ci ha portato a constatare, no? Alla luce di quelli che sono i sopralluoghi, no? che in quanto garante faccio presso l'istituto, che comunque sia nel recente periodo tutto il personale è risultato in affanno, si è avuta questa percezione, è stato esposto a situazioni di maggiorata tensione, che questo è sicuramente un dato preoccupante, se prolungate nel medio lungo periodo si teme possano andare a incidere sulla congruità di quelli che possono essere gli interventi da parte degli stessi operatori. E poi un'ultima considerazione che vorrei fare, questo diciamo così è una considerazione che può avere un respiro, diciamo così, più nazionale, diciamo un respiro complessivo, è relativa al fatto che i disordini di Bologna sono solo gli ultimi in ordine temporale. Quello che va a terminare è un anno che sembra aver avuto, o comunque sia, sembra aver visto difficoltà senza precedenti in tutti gli istituti penali minorili della penisola, da nord a sud, isole comprese. E quindi non ci contano più, per quanto siano stati numerosi nel recente anno, gli eventi critici, i danneggiamenti e anche in considerazione di quelle che sono state le aggressioni in danno del personale. A questo punto risultano non più differibili, sicuramente un'urgente e risolutiva riflessione su quanto sta accadendo, nonché naturalmente auspicabili conseguenti interventi che siano congrui rispetto all'attuale contesto. Sulla base di quello che ha detto, servirebbe quindi ridurre un po' il sovraffollamento e aumentare il personale? Sicuramente una riduzione dei numeri gioverebbe sempre, sicuramente a quella che è la condizione della struttura, anche perché in un modo o nell'altro negli anni passati lo standard qualitativo degli interventi per i ragazzi si era fatto apprezzare anche da tutta la città. Ricordiamo, diciamo così, iniziative importanti, no? come l'apertura dell'osteria formativa, no? Tutte iniziative che sono nate all'interno di un contesto che consentiva la puntualità degli interventi. Quindi non è in discussione quella che è il solido intervento approccio trattamentale educativo da parte della direzione, ma sicuramente consentire che i numeri siano adeguati alla struttura, innanzitutto, che come abbiamo detto risente di inadeguatezze strutturali croniche, e sicuramente che possano essere ampliati gli organici. Penso alle figure educative, ma sicuramente anche al personale addetto alla sicurezza, perché sappiamo che la precondizione per porre in essere interventi educativi interrogativi in un comunque sia in un contesto di privazione della libertà personale deve essere sempre quella, diciamo così, della sussistenza delle condizioni di sicurezza. Ecco.